La situazione è contingente in quanto il Centro Sociale della Pace, che è tuttora l'intestatario dell'affitto dell'edicola di Lino, ha bisogno di pagare l'affitto, perché l'intenzione è quella appunto di continuare a mantenere quello spazio e di preservarlo come presidio culturale, però c'è un affitto da pagare, per cui Erika il cane Bastardiglia hanno fatto questo regalo a Fratello Resiste e hanno regalato un loro disegno che era quello che si era pensato essere per la maglietta di quest'anno del 25 aprile, ma abbiamo deciso di anticiparla appunto come autofinanziamento. Parte del ricavato andrà appunto per sostenere l'edicola di Lino, che ricordiamo è scomparso lo scorso 20 dicembre, ed è stato un momento anche molto commovente il saluto che il fratello gli ha riservato, e parte andrà anche a Gaza. Esatto, adesso la nostra intenzione è quella di metterci in contatto con SOS Gaza e di dare parte del ricavato anche a loro. Che progetti appunto avete per mantenere in vita l'edicola di Lino? Al momento verranno fatte delle giornate di apertura. La prima è sabato 3 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dove troverete qualche volontario, qualche nostro volontario o volontaria disponibile per la vendita di queste magliette e stampe. E io invito, anche se c'è qualcuno che vuole contribuire portando dei vecchi libri usati di cui si vuole liberare, insomma, per aiutarci un po' in questa raccolta fondi. Successivamente, domenica 4 febbraio invece, alle 17:30 al Centro Sociale della Pace ci sarà questa assemblea aperta, dove appunto racconteremo un po' quella che è stata la situazione fino adesso, le prossime iniziative di autofinanziamento e quello che ci piacerebbe poi diventasse successivamente, insomma, in futuro quello spazio. Ovviamente per noi l'importante è, noi ci teniamo tantissimo che quello rimanga uno spazio, appunto, come dicevo prima, un presidio culturale, per cui che non venga, che non faremo di tutto perché non venga fagocitato da questa follia turistica, per cui che non diventi l'ennesimo luogo dove si mangia e si beve, ma appunto noi vorremmo far di tutto perché raccoglieremo idee e progetti perché rimanga un'edicola come era prima, uno spazio di vendita libri, insomma un presidio culturale, ecco. Vi aspettiamo domenica per l'assemblea pubblica e anche sabato come prima giornata di iniziativa di autofinanziamento all'edicola. Seguite la pagina del Centro Sociale della Pace e anche di Fratello Resiste, perché comunque siamo in combo per appunto le prossime iniziative legate a questa situazione.